Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Tutto ciò che riguarda lo show business, si sa, è in qualche modo spietato. Il calcio ormai è a tutti gli effetti da annoverare tra le industrie più imponenti di questo mondo. E infatti, il mondo dello sport più amato dagli italiani ha assunto logiche sempre più crudeli e impietose. Non è una semplice banalità, basta pochissimo per trasformarsi spesso ingiustamente da eroe a capro espiatorio. Basta ancora meno per vedersi impresso immeritatamente un marchio negativo su una rispettabile carriera. Quanti sono infatti i casi di giocatori e allenatori prima incensati oltre i propri meriti e poi crocifissi senza pietà e lasciati scivolare nella polvere? La storia che vi raccontiamo oggi riguarda proprio uno di questi casi. È la storia di un fenomeno vero, di un fuoriclasse assoluto che si è portato dietro per sempre un solo grande errore, come una macchia ingombrante a sporcare una carriera fantastica. Vogliamo raccontarvi la sua storia, anche per rendere il giusto omaggio a un grande campione che ha segnato la storia del calcio. Milano, anni 60. Siamo nel pieno del boom economico. La città lombarda è la capitale economica dell'Italia, il centro propulsore di un fermento che produce in egual misura ricchezza e sperequazioni. Milano è anche la capitale del calcio. Negli anni 60, infatti, Milan e Inter si alternano nel loro dominio sull'Italia e l'Europa. Sull'onda dell'entusiasmo, le due squadre vedono aumentare esponenzialmente il numero dei loro tifosi, grandi e piccoli. La nostra storia inizia seguendo proprio uno di questi piccoli tifosi. Il suo nome è Walter Zenga. Walter Zenga. Walter Zenga è senza troppi giri di parole un mito. Per i tifosi dell'Inter è un totem, una bandiera. Nonostante lo straordinario talento, però, Zenga è sempre stato uno che ha dovuto lottare, che ha dovuto faticare per ottenere risultati importanti. Nonostante ciò, il suo rapporto con San Siro, il suo stadio, sembra un sogno. Il suo ingresso alla scala del calcio avviene prima come tifoso, poi come raccattapalle, infine come numero uno della squadra per cui ha sempre tifato. 28 aprile 1960. È questo l'anno di nascita di Walter Zenga, che nasce da papà Alfonso e mamma Marina in un quartiere della periferia est di Milano. Il calcio è da subito al primo posto tra le passioni del piccolo Walter, dapprima eroe di infuocate sfide ai giardini con gli amici e poi protagonista dei campionati parrocchiali. È un bulletto il piccolo Walter, un ragazzo sfrontato ed estroverso che sceglie subito di stare tra i pali. Di solito in porta a quell'età ci va chi non sa giocare fuori. Lui no, lui ha l'attitudine giusta per starsene là, in porta, solo contro tutti a difendere la rete, come un vero predestinato. Quando Walter ha solo 10 anni viene ingaggiato da una società di Lega Giovanile. Si tratta di una società storica del calcio milanese, la Macallesi, che ha sede proprio nel quartiere di Walter, in Viale Ungheria, a est di Milano. La società acquista il cartellino del piccolo Walter, tesserandolo con un anno in meno in modo da farlo giocare prima del compimento del 10° anno. Con la casacca giallo-blu della Macallesi, Walter gioca un anno in giro per gli spelacchiati e nebbiosi campetti milanesi. Tra i pali è un piccolo fenomeno, in grado di attirare sempre una discreta folla di curiosi che desiderano vedere volare da un palo all'altro quel piccolo paratutto che ha meno di 11 anni. Tra questi curiosi, un giorno, ne arriva uno particolarmente interessato. Italo Galbiati, modesto ex calciatore dell'Inter, ma efficacissimo tecnico del settore giovanile dei nerazzurri. Dal campo di Viale Ungheria a quello di Via Ludovico il Moro, prezzo per questo trasferimento, un corredo di maglie e un pallone per la Macallesi. Galbiati lo chiama a far parte dei suoi pulcini. Per il piccolo Zenga, tifoso nerazzurro che a San Siro andava col papà, è il materializzarsi di un sogno. Così come molti dei suoi compagni delle giovanili dell'Inter, Zenga la domenica sfoga il suo entusiasmo e la sua dedizione facendo di tutto per essere scelto nei 9 raccattapalle della prima squadra. Si piazza dietro la porta del suo idolo, il portiere dei nerazzurri Ivano Bordon, e non si muove più, studiando nei minimi dettagli tutte le sue mosse. Ehi, un pallone! Hop! Bravo, bravo Bordon! Sei grande! Fantastico! Le poche volte che Zenga non viene scelto tra i raccattapalle, va in curva, in mezzo ai boys, a sventolare un'enorme bandiera. Walter cresce, sotto tutti i punti di vista, nelle giovanili dell'Inter. Cresce come atleta e cresce come uomo. Per racimolare qualche soldo, lavora anche part-time come segretario nella sede dell'Inter di Foro Buonaparte. Svolge piccoli lavori pratici, come smistare la corrispondenza alla segretaria Ileana. Dopo la trafila nel settore giovanile dell'Inter, la dirigenza del club milanese decide che è tempo che il portiere vada a farsi le ossa nelle serie minori. Così Walter va in prestito alla Salernitana in C1, poi al Savona in C2 e quindi difende nelle annate 1980-81 e 1981-82 i colori della San Benedettese, contribuendo al raggiungimento della Serie B da parte della squadra marchigiana. Walter rientra all'Inter nella stagione 82-83 come riserva del suo vecchio idolo, Ivano Bordon. Molto diligentemente vive una stagione da numero 12, aspettando l'occasione giusta. Questa si presenta a fine anno, quando l'allenatore Rino Marchesi lo lancia in prima squadra nella fase finale della Coppa Italia, per fargli accumulare un po' di esperienza. Zenga impressiona favorevolmente l'ambiente in quelle prime uscite, anche se nessuno ancora è consapevole di ritrovarsi per le mani un campione. Ivano Bordon, nella stagione 1983-84, lascia l'Inter dopo 13 lunghi anni, destinazione Sampdoria. Si apre la difficile questione della sua successione. Chi prenderà il suo posto? Il presidente Fraizzoli inizia a sondare il mercato. Poi però Sandro Mazzola, bandiera della grande Inter e ora dirigente, propone al presidente di lasciare Zenga come titolare in prima squadra, scommettendo fiduciosamente su di lui, nonostante i rischi che poteva comportare il fatto che il giovane portiere non avesse mai disputato una partita in Serie A. Alcuni senatori dello spogliatoio dell'Inter danno il proprio avallo. Il nuovo numero uno dell'Inter nel 1983 è il giovane Walter Zenga. Siccome il calcio è fatto di incroci, intersezioni, corsi e ricorsi, succede che l'Inter nella stagione 1983-84 abbia la partita d'esordio del campionato in casa contro la Sampdoria. Tra i pali del team blucerchiato proprio Ivano Bordon, il grande ex e grande modello di Zenga. L'inizio non è dei migliori. Vince la Sampdoria 2-1. Zenga al suo debutto incassa subito due reti a San Siro. Sulla panchina nerazzurra siede Gigi Radice, subentrato a Rino Marchesi. È un Inter di transizione, forte in difesa e in attacco, debole a centrocampo. Arriverà quarta, uscendo presto da Coppa Italia e Coppa UEFA, nonostante le parate di Zenga. Walter Zenga, già da quella prima stagione, entra nei cuori dei tifosi nerazzurri e diventa ben più di un semplice giocatore, diventa un'icona. Guascone, sfrontato, col ciuffo ribelle e la catenina sempre fuori dalla maglia, Zenga accende l'immaginario dei tifosi e sembra fatto apposta per il calcio anni Ottanta. Spesso accompagnato da belle ragazze, ma sempre impeccabile negli allenamenti, Walter si fa amare anche e soprattutto per il suo stile tra i pali, spettacolare, plastico, a volte eccessivo. Il portierone sembra quasi sfidare ogni volta gli avversari con il suo atteggiamento scanzonato. Insomma, Zenga ci mette veramente pochissimo a diventare il beniamino dei tifosi nerazzurri. Cameriere? Sì, lei lo sa chi sono io, no? Nella seconda metà degli anni Ottanta, Walter Zenga diventa addirittura conduttore televisivo della trasmissione Forza Italia, in onda su Odeon TV. Allora, grande concorso Ferrari Testa Rossa, il sogno di tutti gli italiani. Lo conoscono tutti ormai, il concorso, le modalità, tutti tranne uno. Insomma, un personaggio a tutto tondo, Walter Zenga. Nella stagione 1988-89, sulla panchina nerazzurra siede Giovanni Trapattoni. È un anno da incorniciare. L'Inter vince lo scudetto dei record, una galoppata trionfale lungo la quale sbaragliano letteralmente la concorrenza senza fare prigionieri. Walter è tra i grandi protagonisti del trionfo. Un trionfo ancora più importante se si pensa che gli avversari erano i Napoli di Diego Armando Maradona, il Milan degli olandesi, la Sampdoria di Vialli e Mancini. Zenga è all'apice della sua carriera e a suggellare questo periodo straordinario arriva naturalmente la nazionale. Walter e la nazionale, un rapporto di amore e odio, totale, estremo. Qui il portierone raggiungerà il massimo della gloria, qui sperimenterà l'assurdità mediatica del pallone. la parabola di Zenga in nazionale non inizia sotto i migliori auspici. Enzo Biarzot lo chiama prima del mondiale messicano per provarlo come titolare, ma lo trova impegnato in una fuga d'amore, non gradisce e lo relega in panchina. Al mondiale 1986 Zenga va, ma fra i pali gioca Giovanni Galli. Dopo il fallimento messicano, l'Italia cambia rotta. Sulla panchina siede Azeglio Vicini, che punta tutto sui giovani e su Walter. Il primo impegno da onorare è l'Europeo del 1988, che si gioca in Germania. Sono le prove generali per collaudare il team che nel 1990 dovrà affrontare il Mondiale in Italia, davanti al pubblico di casa. Vicini costruisce una squadra fresca, piena di giovani grintosi e determinati, che supera di slancio le qualificazioni. Davanti a Zenga c'è una linea difensiva di tutto rispetto. Franco Baresi, Beppe Bergomi, il giovanissimo Paolo Maldini. Proprio Bergomi, insieme a Vialli, ricorda quel team. Andare in nazionale non sempre, lo dico per esperienza, è stato un piacere, proprio perché a volte si stava meglio nella propria squadra di club e poteva anche... Era sempre un onore, una cosa di cui essere orgogliosi, però a volte spostarsi da un gruppo all'altro poteva essere un pochino... Invece in quella nazionale devo dire che ci venivano tutti, anche infortunati, e c'era veramente il piacere di stare insieme, di condividere le... Se non si voleva saltare neanche un amichevole, mai. Era piacevole stare insieme, passare il ritiro, le giornate, le serate, ritrovarsi in camera... C'era il Vialli che giocava a carte, l'altro che mangiava il panino, l'altro insomma, faceva gruppo insomma. L'Italia disputa un bel europeo, esordio contro i padroni di casa della Germania e pareggio 1-1. Poi vittorie contro Spagna e Danimarca e passaggio in semifinale. Zenga è grande protagonista, parando tutto il parabile e dimostrandosi un vero leader. In semifinale l'Unione Sovietica, ancora troppo solida per la giovane squadra azzurra, batte per 2-0 l'Italia, che si dimostra comunque pronta per l'appuntamento da non fallire, il Mondiale del 1990. ...56 anni dopo il Mondiale del 1934... quello vinto dalla nazionale guidata da Vittorio Pozzo in piena epoca fascista... la massima competizione calcistica torna in Italia... un evento imponente... 52 partite in 31 giorni in ben 12 città... con oltre 40.000 accreditati e 28 miliardi di contatti televisivi... l'Italia cerca di farsi trovare preparata... i 12 stadi scelti vengono rimodernati o addirittura costruiti ex novo, con costi astronomici, polemiche e strascichi in tribunale. Gli unici a farsi trovare davvero pronti sono gli azzurri, che partono come i favoriti della vigilia. Siete collegati in diretta con lo Stadio Olimpico di Roma, dove sta per avere inizio l'incontro valido per il campionato del mondo tra le nazionali d'Italia e Austria. Al match d'esordio l'Italia fatica, ma alla fine la spunta, 1-0, gol di Totò Schillaci. Quello che sembra evidente, però, è la solidità difensiva degli azzurri. Naturalmente un contributo determinante a questa impenetrabilità lo fornisce il portierone Walter Zenga, che ormai tutti soprannominano l'Uomo Ragno. L'Italia supera il girone a punteggio pieno. Il dato che più colpisce, però, è lo 0 alla voce gol subiti. La porta di Walter Zenga appare inviolabile. Agli ottavi di finale l'Italia piega l'Uruguay 2-0. Momento ribattuto e fine della partita con l'Italia che accede ai quarti di finale. Ai quarti è il turno dell'Irlanda. È finita questa dura battaglia con l'Eire. Gli azzurri sono in semifinale. Walter Zenga ha stabilito un record straordinario. 5 gare, 450 minuti senza subire una rete. È la prima volta nella storia dei mondiali. Per raggiungere questo record ha dato un contributo determinante con parate straordinarie e decisive. Non sa però che in semifinale la crudeltà del calcio si manifesterà in tutta la sua amarezza. L'Italia si appresta a incontrare i campioni in carica, l'Argentina di Diego Armando Maradona. 3 luglio 1990, Stadio San Paolo, Napoli. Un contesto molto familiare a Diego Maradona. Sugli spalti ci sono 70.000 spettatori. Davanti ai televisori italiani ce ne sono 27 milioni e 500.000, un record assoluto. Signore all'ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con Napoli, dove sta per avere inizio la partita di semifinale per il campionato del mondo che vede di fronte le nazionali d'Italia ed Argentina. Una partita attesissima e destinata a rimanere nei ricordi di tutti i tifosi. Ne parleremo tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati vi raccontiamo la storia di Walter Zenga, la sua scalata al successo dai campi di periferia di Viale Ungheria a Milano, fino alla semifinale del campionato del mondo di calcio del 1990, dove l'Italia si trova ad affrontare l'Argentina. Gli azzurri arrivano a quel match senza aver subito nemmeno un gol. Walter Zenga ha mantenuto la sua porta inviolata ed è un record straordinario. Ora davanti c'è l'Argentina di Diego Maradona, un avversario non impossibile nonostante siano i campioni in carica. I sudamericani infatti sono apparsi opachi durante tutto il torneo, sono andati avanti con molta fatica e partono certamente sfavoriti davanti alla solidità difensiva degli azzurri. Quando la partita inizia, però, si vede subito che c'è qualcosa di molto diverso rispetto alle previsioni della vigilia. L'Italia gioca bloccata, contratta. La tensione sembra pesare in maniera determinante sulla nostra nazionale, che non dà quell'idea di solidità che aveva mostrato nelle partite precedenti. Ciò nonostante, in maniera piuttosto rocambolesca, l'Italia trova la via del gol. Serrizuela, e vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! L'Italia è in vantaggio e chiude in vantaggio il primo tempo, anche grazie agli interventi di Zenga. Maradona ancora, poi Basualdo e c'è questo gran tiro di Burruciaga con Zenga costretto in calcio d'angolo. Il destino però è in agguato sopra il cielo di Napoli e rimane nascosto fino al 67esimo minuto. Fino a quel momento la porta di Zenga è rimasta inviolata in totale 517 minuti. All'inizio di quel fatale 67esimo minuto la palla è sui piedi di Diego Armando Maradona sulla fascia sinistra. Diego riesce a trovare lo spazio per effettuare un cross. Il pallone giunge in area, sembra innocuo. Il difensore italiano Riccardo Ferri sembra in anticipo. Inoltre Zenga decide di uscire per bloccare il pallone. Il portierone dell'Inter fino a quel momento è per tutti gli italiani lo straordinario recordman che non ha incassato nemmeno un gol, un muro. Lo sarà ancora per pochi istanti, perché in mezzo tra Walter, il pallone e Riccardo Ferri c'è un biondo attaccante argentino che gioca nel campionato italiano e che fino a quel momento è considerato semplicemente un discreto giocatore. Si chiama Claudio Paul Caniggia. Claudio Paul Caniggia. Claudio Caniggia, classe 1967, è uno di quegli attaccanti maestri nel trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Rapido e veloce quanto discontinuo, ha esordito in Argentina in una delle squadre più blasonate del Sud America, il River Plate, dove è rimasto fino al 1988. In quell'anno arriva nel campionato italiano. Caniggia! In posizione regolare, pallonetto e gol. Il Milan stavolta si è fatto pescare impreparato e Caniggia ha messo dentro il pallone dell'1-1 al 21esimo del secondo tempo. La prima stagione in Italia viene disputata da Caniggia con la maglia del Verona. Poi, l'anno successivo, quello prima dei mondiali, Caniggia si trasferisce all'Atalanta, dove diventa un trascinatore, riuscendo a suon di gol a portare i nerazzurri di Bergamo fino alla qualificazione in Coppa UEFA. Grazie alle buone prestazioni nell'Atalanta, per Caniggia, arriva anche la nazionale e arriva il mondiale 1990. Alla prima partita contro il Camerun, Caniggia va in panchina. L'Argentina perde sorprendentemente 1-0 contro gli africani. Poi però il CT Bilardo lo inserisce nei titolari. I sudamericani passano a stento la fase a gironi e incontrano negli ottavi di finale il Brasile. Sembra uno scoglio impossibile, e invece... All'ottantesimo, a 10 minuti dalla fine di una partita decisamente deludente, proprio Caniggia pesca il gol che fa andare avanti l'Argentina, che approda ai quarti di finale. Ai quarti, l'Argentina affronta la Jugoslavia, a Firenze. È un'altra partita a dir poco deludente. Finisce 0-0, Caniggia è quasi inesistente. Servono i calci di rigore per stabilire il passaggio del turno. Ai tiri dagli 11 metri, il portiere argentino Goico Echea si scatena e ne para addirittura 3. Gli argentini approdano in semifinale contro l'Italia, ma la qualità espressa fino a quel momento li fa apparire logicamente come sfavoriti. Ma il destino ha deciso diversamente. Torniamo al 67esimo minuto di Italia-Argentina. Il punteggio è sull'1-0 per gli azzurri. Maradona ha il pallone, crossa. Il pallone arriva in mezzo all'area. Ferri sembra in anticipo, Zenga esce. Il pallone dovrebbe essere suo, in mezzo c'è Caniggia. Purtroppo, per la prima volta in tutto il mondiale, Zenga ha commesso un errore. Il tempo dell'uscita è sbagliato. Walter manca il pallone, Ferri anche, Caniggia no. L'attaccante argentino tocca il pallone, che finisce in fondo alla rete. È successo quello che nessuno si aspettava. In una frazione di secondo nessuno fra i tifosi italiani si ricorda più che per 517 minuti la porta di Zenga è stata inviolata. Nessuno si rammenta delle parate che il portiere dell'Inter aveva fatto fino a quel momento, consentendo agli azzurri di giungere fino in semifinale. Conta solo quel maledetto errore che porta gli azzurri fino alla lotteria dei rigori. E stavolta voi però fischia addirittura solo con 7-8 secondi di recupero. I rigori, come si dice sempre, sono imprevedibili. Eppure nell'aria quella sera c'è un'atmosfera strana. Ci sono dei presagi troppo evidenti, come se quella storia fosse già stata scritta. Il portiere argentino Goico Echea aveva già parato 3 rigori nei quarti di finale e galvanizzato. Zenga, d'altra parte, nonostante il grande temperamento, è scosso dall'errore. Le due squadre realizzano i primi 3 rigori. Al quarto giro va sul dischetto Roberto Donadoni. Donadoni. Ai! Mentre il centrocampista del Milan sbaglia, Maradona, nel suo stadio, realizza il suo tiro. L'Argentina ora è in vantaggio 4-3. Aldo Serena ha sui piedi il pallone che potrebbe tenere in vita gli azzurri. E va Serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista. L'errore di Serena ci condanna a stare fuori dalla finale. Gli argentini andranno a difendere il loro titolo contro la Germania, mentre per gli azzurri inizia una sorta di maledizione dei rigori, che saranno fatali anche nei due mondiali successivi, nel 1994 e nel 1998. L'incrocio più surreale di quella sera, però, è quello tra Walter Zenga e Claudio Caniggia. Entrambi rimangono scolpiti in quel fatale istante, il 68esimo minuto di Italia-Argentina. Provate a chiedere ai tanti tifosi che si ricordano quel mondiale. Quasi nessuno ricorda l'imbattibilità record di Zenga. Quasi nessuno ricorda che Walter riceverà anche il premio come miglior portiere e che deciderà di metterlo all'asta e di devolverne il ricavato in beneficenza. Tutti però ricorderanno quella maledetta uscita sbagliata. E tutti si ricorderanno di Claudio Paul Caniggia, unicamente per quel gol di testa, di rapina, che ha spento i sogni mondiali degli azzurri nelle magiche notti di Italia 90. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Destini incrociati. Walter Zenga, uno dei più grandi portieri del nostro calcio. Il suo grande talento però viene spesso ingiustamente offuscato da un errore che l'uomo ragno commette nel Mondiale del 1990, quando sbaglia il tempo di un'uscita, anticipato dall'attaccante argentino Claudio Paul Caniggia. Un'immagine che si scolpisce nell'opinione pubblica, determinando una svolta non tanto nelle carriere di entrambi, quanto nella percezione comune che i tifosi ne hanno. Zenga, che per carattere rispecchia nei minimi dettagli il prototipo del portiere, guascone, un po' arrogante e sfrontato, non ammetterà mai quell'errore. «È stato bravo Caniggia», dirà, rifiutando di recitare la parte del capro espiatorio. Proprio per questo, però, la stampa specializzata non gli perdona l'accaduto e gli appioppa un'etichetta in larga parte immeritata. Zenga? Grande portiere, se rimane tra i pali. Peccato che non sappia fare le uscite. In ogni caso, Walter rimane in nazionale altri 2 anni. Gli azzurri, ancora guidati da Vicini, si giocano la qualificazione agli europei del 1992. Falliscono però l'obiettivo e questo fallimento costa il posto di Azeglio Vicini. Al suo posto arriva Arrigo Sacchi. Sacchi porta il suo innovativo gioco a zona in nazionale e sceglie i giocatori con le caratteristiche necessarie per assimilare rapidamente le sue idee. Il nuovo CT non trascura alcun dettaglio. Al posto di Zenga, Sacchi sceglie di affidare la porta a Gianluca Pagliuca, più giovane e si dice più solido tra i pali. Zenga commenta l'amara decisione del CT con la consueta ironia e l'abituale sfrontatezza. Davanti ai microfoni dei giornalisti, canticchia una celebre canzone particolarmente adatta a fotografare il momento. Anche Caniggia, dopo il Mondiale italiano, vive la sua parabola discendente. Nel 1992 passa alla Roma, ma prostrato da continui problemi fisici, non riesce a giocare con continuità. Nei ricordi dei tifosi giallorossi resta un solo gran gol che l'attaccante argentino segna al Milan in Coppa Italia. Poi, nel 1993, il fattaccio. Caniggia viene trovato positivo alla cocaina e viene squalificato per 13 mesi. Perde un'intera stagione e si trasferisce in Portogallo, al Benfica, dove imbocca definitivamente la parabola discendente. Eppure, nonostante una carriera non certo straordinaria, l'attaccante vive nei ricordi dei tifosi come protetto dal ricordo di quel gol mondiale, come il giustiziere dell'Italia di Azeglio Vicini e di Walter Zenga. Nell'Inter Walter rimane titolare e idolo dei suoi tifosi per altre 4 stagioni dopo il Mondiale. Poi, nel 1993-94, arrivano le difficoltà. Il 34enne Zenga commette qualche errore più del solito. L'Inter va decisamente male, piovono le contestazioni. Zenga, amareggiato, scrive addirittura una lettera ai tifosi, rivendicando quanto fatto in passato per la sua squadra. È il preludio dell'addio. Il presidente Pellegrini si accorda con la Sampdoria per uno scambio. Proprio quel Pagliuca che ha preso il suo posto in nazionale andrà a difendere la porta nerazzurra. Walter, dopo 12 anni, lascerà l'Inter e si accaserà alla Sampdoria. Però tutte le storie d'amore meriterebbero un addio all'altezza di ciò che è stato. Quella fra Zenga e l'Inter non può essere da meno. Così la stagione 1993-94, scialba e deludente, ha comunque un lampo. I nerazzurri arrivano in finale di Coppa UEFA. Gli avversari sono i modesti austriaci del Salisburgo, che però diventano insidiosi proprio a causa della scarsa vena dell'Inter di quella stagione. La gara d'andata si gioca in Austria e l'Inter riesce a ottenere un risultato importantissimo, 1-0, gol di Nicolino Berti. Batte Sosa. E il pallone termina il gol, gol di Berti. Berti ha segnato per l'Inter al 35esimo del primo tempo, gol di Nicola Berti. Al ritorno a San Siro, Walter Zenga disputa l'ultima gara della sua carriera nerazzurra. I suoi compagni di squadra non sembrano all'altezza del palcoscenico di una finale. Lui sì. In volo, in tuffo, di piede, in uscita, il Salisburgo per 60 minuti assalta la porta di Zenga che un miracolo dopo l'altro respinge gli austriaci. Al minuto 62 l'olandese Wim Jonk sigla il gol della tranquillità. Al 90esimo lo stadio esplode e celebra per l'ultima volta il suo beniamino. Walter Zenga, salta con noi! Walter Zenga, salta con noi! L'uomo ragno, il portiere da battaglia che tutti dicevano non sapesse fare le uscite, è entrato a San Siro come raccattapalle, ne esce con una Coppa Europea in mano. Molti tifosi italiani si ostinano a ricordarlo per quell'uscita su Caniggia, ignorando il fatto che Walter è stato tra i più grandi portieri del calcio moderno. Per gli interisti, quelli veri, Walter Zenga è semplicemente uno di loro. So you're dancing up the ocean, running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your head.